Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, buongiorno. Il programma prevede di parlare di santi come Marco Evangelista e Giuseppe Artigiano, di storie che non stanno in piedi, nonché della rigidità al ribasso.